voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Ne abbiamo già presi 8, tutti dello stesso tipo, belli grassi. 9. Dio, sei uno! Sono topi di fogna. Profumo di eclettica. Thank you. Blanche. Blanche Mandelstam, dolce ma bovina, con dita nervose, paffutelle e occhiali dalle lenti spesse, si sveglia al suono della radiosveglia. «Volevo fare la campionessa olimpica di nuoto», confidò al suo dottore, «ma avevo problemi di galleggiamento». Anni fa, Blanche sarebbe stata considerata carina, ma in epoca non posteriore al Pleistocene. Per suo marito, Leon, però, lei è la più bella creatura del mondo, dopo Ernest Borgnine. Blanche e Leon si sono conosciuti tanto tempo fa, ad un ballo studentesco. Lei è una eccellente ballerina, sebbene durante il tango consulti costantemente un prontuario illustrato. Parlarono liberamente e scoprirono di avere molte cose in comune. Per esempio, a entrambi piaceva un po' di pancetta prima di coricarsi. Blanche fu molto impressionata da come vestiva Leon, poiché non aveva mai visto nessuno con in testa tre cappelli alla volta. Si sposarono e non passò molto tempo che ebbero la loro prima e unica esperienza sessuale. Fu una cosa assolutamente sublime, ricorda oggi Blanche, sebbene il mio Leon abbia tentato di svenarsi. Blanche, appena sposata, disse chiaro che, quantunque suo marito guadagnasse benino come cavia umana, lei non intendeva mollare il suo impiego al reparto calzatura della Entwistle. Troppo orgoglioso per farsi mantenere, Leon accettò a malincuore, ma si fece giurare che, a 90 anni, sarebbe andata in pensione. La mattina presto i coniugi fanno colazione insieme. Per lui, spremuta, tostino e caffè. Per lei, il solito. Un bicchiere d'acqua calda, un'ala di pollo, costolette di maiale all'agrodolce e cannelloni. Poi lei si reca all'Entwistle. Nota: Blanche dovrebbe cantare mentre sfaccenda, come la cugina Tina, ma non soltanto l'inno nazionale giapponese. Questo era ancora un avverso destino, appunti per un romanzo di 800 pagine, il grande libro che tutti attendono, da Effetti collaterali di Woody Allen. She'll got the tired, wired drugs to make a taking her it low, thanking her, drinking her, never bothered with thanking her. Shakes in me, takes of me, uses up more than it makes of me. Svelare un segreto, è stata veramente dura riuscire a rimanere serio nel leggere il pezzo estratto da Effetti Collaterali di Woody Allen di qualche minuto fa. È stata veramente dura, non so se anche a voi ha suscitato la stessa ilarità che suscitava nella mia testa. Comunque è la seconda parte di Eclettica, la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Eclettica che ha la sua 13ª stagione, quindi ha deciso di inserire quest'anno al suo interno uno spazio chiamato Profumo di Eclettica. Avete sentito la sigla subito prima del primo brano di questa seconda parte. In effetti era quello un pezzo del 2002, siamo andati a ripescare da una playlist del passato, come facciamo ogni settimana, un disco Rough Trade, sicuramente il miglior disco di Baxter Dury, figlio di Ian Dury, Len Parrott's Memorial Lift, e questo è il titolo dell'album dal quale abbiamo estratto Oscar Brown. Poi è stata la volta dei The Magic Markers, band che probabilmente è conosciuta da molti fra voi come band abrasiva, come band che basava sul rumore la sua proposta musicale, ma avete appena sentito qualcosa di diverso, avete sentito della melodia, avete sentito degli arrangiamenti diversi rispetto alle prove precedenti, il tutto fra l'altro nelle mani di Lee Ranaldo dei Sonic Youth, che potrebbe sembrare quasi una contraddizione in termini. Taste è il titolo del pezzo appena ascoltato, che è accompagnato anche da un video diretto da Heidi Dill dei Wooden Wand e The Vanishing Voice. Ed ora, in Eclettica, Fujiya e Miyagi. Yeah. topi e topi, per favore, raggi del fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio. Là! Contento? Carmen, ritratto di uno psicopatico basato su certi tratti osservati in Fred Simdong, in suo fratello Lee e nel loro gatto Sparky. Carmen Pinchuk, tozzo e pelato, uscì da sotto la doccia e si tolse la cuffia da bagno. Benché privo totalmente di capelli, odiava bagnarsi il cranio. «Perché dovrei?» diceva agli amici. «Poi i miei nemici avrebbero un vantaggio su di me». Secondo alcuni, tale atteggiamento poteva considerarsi strano, ma lui sbottava a ridere. Poi, dardeggiando occhiate tutto intorno per accertarsi di non essere visto, sbaciucchiava alcuni cuscini. Pinchuk è un uomo nervoso, che va a pesca nel tempo libero ma non ha mai preso niente dal 1923 ad oggi. «Non è scritto nel mio destino, mi sa», dice ridacchiando. ma quando un amico gli fece notare che gettava la lenza in una bottiglia di panna, si sentì a disagio. Pinchuk ha fatto molte cose. È stato espulso dal liceo perché muggiva in classe e da allora fa il pastore, lo psicoterapeuta e il mimo. Attualmente è impiegato alla protezione animali selvatici e pesci, dove lo pagano per insegnare lo spagnolo agli scoiattoli. Pinchuk viene descritto da quanti lo amano come un punk, un solitario, uno psicopatico e uno zoticone. Gli piace starsene chiuso in camera sua, a parlare con la radio, racconta un vicino. Sa essere molto leale, osserva un altro. Una volta che Mrs. Monroe scivolò sul ghiaccio, anche lui volle fare uno scivolone per simpatia. Politicamente Pinchuk è, per sua stessa ammissione, un indipendente e alle ultime elezioni presidenziali, sulla scheda, scrisse il nome di Cesar Romero. Ora, calcandosi in testa un berretto da tassinaro e prendendo su una scatola avvolta in carta da pacchi, Pinchuk esce di casa e scende in strada. Qui si accorge di essere completamente nudo, a parte il berretto da tassista. Torna indietro per vestirsi. Poi si reca alla Entwistle. Nota: ricordarsi di entrare in maggiori dettagli sull'ostilità di Pinchuk nei riguardi del berretto. Questo era ancora un avverso destino, appunti per un romanzo di 800 pagine, il grande libro che tutti attendono, da Effetti collaterali di Woody Allen. Sitting in her Honda, feeding in the parking lot. I had a heart, but she slayed me and she took me apart. Anaconda, call her by Yolanda, kissing in a 4x4. Her bedroom door has a lock and a window pane. All my money's down the drain. I'm insane, but I do it again. It never costs much, but I tell you I'm not done yet. I do it again. I think I must. If I will win, I think she likes me. Come again, and I think she'll teach me how to swim. Waiting for the backseat show. She's go, go, go. And I'm shaking my pom pom bonbons. Now she's swimming in the deep in the jungle. Nile isn't far away. And I must say that I'd give her to her any day. All my money's down the drain. I'm insane, but I do it again. I must confess, I'm hardly depressed. Oh yes, she's coming again. I think she likes me. Come here again. I think tonight I'm gonna win. She'll let me swim. Well, let me in. Solo. Drain. I'm insane, but I do it again. I must confess, I'm highly depressed. Oh yes, here she comes again. I think she likes me, trying to win. I hardly think tonight's the pin, but maybe she'll swim and let me in. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 44, volume numero 2. Indice: The Sleeping Years, Throw Me the Statue, Travis Morrison and Fighters, Frog Eyes, Best Friends, Baxter Dury, Magic Markers, Fujiya e Miyagi, Carpaccio, Misha. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.